Capitolo decimo di L'anno 3000, un sogno di Paolo Mantegazza. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Capitolo decimo. La città di Andropoli contiene più di 50 grandi teatri, dove si danno spettacoli diversissimi per diletto degli occhi e delle orecchie, per diletto della fantasia e del cuore. Sono quasi tutti proprietà di speculatori o di società industriali e ve n'ha anche di privati che appartengono a ricchi signori che li spesano per il loro divertimento e quello dei loro amici e dove i dilettanti della musica o dell'arte drammatica si divertono facendo da attori e da spettatori nello stesso tempo. Il solo Panopticon, il più grande e il più ricco dei teatri di Andropoli, è proprietà dello Stato, il quale cerca negli spettacoli che vi si danno di educare il popolo al bello e alle dolci emozioni, riunendovi tutti i più ingegnosi trovati della scienza e dell'arte. Tutti quanti i teatri della grande capitale cosmica sono coperti soltanto nella stagione fredda e allora la più perfetta ventilazione si accorda con l'opportuno riscaldamento. In tutti vi sono posti più o meno comodi e di diverso prezzo, ma nell'alto dell'anfiteatro, dove anticamente era posto il lobbione, si vede un ampio spazio riservato ai poveri, che vi hanno entrata libera per turno o come premio di buone azioni o in pagamento di servizi resi. Nei teatri dell'anno 3000 ogni due posti si vedono due bottoni metallici, sui quali premendo col dito o col piede si può applaudire o disapprovare gli autori senza rompersi le mani e senza fischiare. Premendo sul bottone del plauso esce una voce che in lingua cosmica corrisponde ai nostri bravo e premendo sull'altro si ode un lungo sibilo come chi invita un altro al silenzio. Gli spettacoli sono diurni e notturni, ma assai più spesso si danno di giorno, perché gli abitanti dell'anno 3000 hanno da lungo tempo trovato che il vegliare molte ore della notte è assai nocivo alla salute e abbrevia la vita. Essi vanno tutti a letto molto per tempo e si alzano sempre col sole. Da parecchi secoli signorava fatto il lavoro notturno nelle officine e gli operai non lavoravano mai più che 6 ore al giorno, essendosi perfezionate tutte quante le arti meccaniche e avendo le macchine sostituito in gran parte il lavoro manuale. Gli spettacoli del secolo XXI sono molto più variati di quelli conosciuti nell'evo antico e basta persuadervene il programma di un giorno che trovo in un giornale di Andropoli. Spettacoli che si daranno nei teatri di Andropoli giorno 26 di aprile dell'anno 3000. Panopticon, serata di gala con intervento del Pancrate, il ciclo del piacere cosmico da Omero all'anno 3000. Panglosso, l'Edipo di Sofocle in greco antico, una pochade del secolo XIX in lingua francese. Il Panglosso è un teatro riservato agli uomini molto colti e dove si danno rappresentazioni nelle lingue morte, dal greco all'italiano, dal latino e da sanscrito all'inglese, al turco, al cinese. Teatro della commedia Gaia, le gelosie d'un podestà e di due sindaci, commedia in 4 atti. Teatro della tragedia classica, l'Amleto di Shakespeare tradotto dall'inglese in lingua cosmica. Teatro della tragedia moderna, la povera Lisa, tragedia in 5 atti del celebre scrittore inglese John Tremblay. Teatro della tarantella, la capricciosa, commediola tutta da ridere con canzonette e balli degli antichi spagnoli e napoletani. Teatro dell'armonia, grande opera seria del maestro andropolitano Soavi, l'ultimo re e papa. Teatro della musica antica, un atto del barbiere di Siviglia, un atto della Norma di Bellini, un atto del Lohengrin di Wagner. Teatro della bellezza, pantomima e quadri plastici, nei quali figureranno 100 fanciulle bellissime fra tutte le razze d'Asia, d'Europa e d'Africa. Teatro delle meraviglie, spettacolo variato in cui si riproducono al vero tutti i cataclismi tellurici. Questa sera avrà luogo la rappresentazione di un'eruzione vulcanica e di un terremoto. Si sta preparando per la settimana prossima un'inondazione del Mississippi. Teatro della luce, l'iride magica, spettacolo fantastico di giochi di luce che rappresenterà un'aurora boreale al Polo Nord e il sorgere del sole nel mondo della luna. Teatro della fantasmagoria, una scena d'amore nel pianeta di Marte, sogno di un poeta. Teatro di Tersicore, Cleopatra, ballo dell'antico Egitto, nel quale agiranno 500 ballerine, delle quali 200 negre e 300 bianche, tutte giovani e belle. Teatro istruttivo, la storia della locomozione. Si rappresentano in altrettanti quadri tutte le invenzioni dei mezzi di trasporto terrestre e aereo, dal carro a due ruote trascinato dai bovi, alla locomotiva, al velocipede, al tram elettrico, all'aerostato. La musica che accompagnerà tutto lo spettacolo sarà del tempo corrispondente ad ogni invenzione. Teatro zoologico, l'Arca di Noè. Gli attori saranno tutti animali educati magistralmente dal celebre domatore parmigiano Faimali. Entreranno sulla scena belve scomparse da secoli dal nostro pianeta e gentilmente prestate dall'Accademia delle Scienze. Teatro botanico, la grande battaglia delle piante. Non si vedranno che fiori che parlano, piante che camminano e prati che bisbigliano. Lo spettacolo nuovissimo per Andropoli rappresenta la lotta delle monocotiledone del terreno carbonifero con le piante dell'Evo moderno. Teatro degli insetti, le metamorfosi di un Baco. Uomini travestiti mirabilmente da insetti rappresenteranno la storia di un Baco da seta che, fuggendo di nascosto da un bozzolo in forma di farfalla, si reca in un'isola dove invita tutti gli insetti a ribellarsi dal giogo e dalla crudeltà dell'uomo, fondando una repubblica entomologica. Lo spettacolo sarà chiuso da un ballo fantastico delle farfalle e delle libellule più belle del tropico. Teatro marittimo, l'ultimo pesce cane. Storia di una congiura dei pesci marini per uccidere l'ultimo pesce cane rifugiatosi in una grotta madreporica delle isole Marchesi. Tutto lo spettacolo si dà sotto l'acqua e vi figurano le antiche balene e molti altri animali ormai scomparsi dalla terra. Teatro dei buffoni, le miserie di un antico buffone. Farsa tutta da ridere, si raccomanda agli spettatori di adoperare con molta energia il freno moderatore, onde non uscire dal teatro col ventre scoppiato per il troppo ridere. Il teatro dei buffoni di Andropoli ha lo scopo di far ridere ad ogni costo, onde rallegrare gli ipocondriaci, gli annoiati e tutti i depressi. Teatro del pianto, le lacrime di una tradita nel secolo XIX. Il teatro del pianto non dà che rappresentazioni melanconiche, ma non mai strazianti, per mettere una nota triste pur desiderata nella vita dei troppo felici. Teatro dei miracoli, le metamorfosi di un sasso. Spettacolo curiosissimo e istruttivo, nel quale si vedrà una pietra fondersi e trasformarsi in tutti i metalli conosciuti, per fondersi di nuovo, volatizzare, diventare invisibile e poi ritornare all'antica pietra. Teatro dei profumi, le danze degli odori. Si daranno sinfonie svariate dei profumi più delicati dei fiori con accompagnamento di musica e cori invisibili di voci femminili. Teatro dell'agilità, l'acrobatica antica. Spettacolo svariato che riprodurrà gli esercizi più curiosi del trapezio, della corda tesa e delle sbarre usati nell'antichità. Teatro atletico, le meraviglie del famoso atleta Ercole X. Sfida di Ercole X a tutti i lottatori del mondo. Egli darà un premio di lire 10.000 a chi riuscirà ad abbatterlo. Teatro sotterraneo, il centro della terra. Scene di gnomi e di giganti che si contrastano il dominio sotterraneo. Scene geologiche e paleontologiche svariate. Teatro della satira, le avventure di un antico commendatore. Commedia tutta da ridere, si raccomanda caldamente l'uso del freno moderatore. Teatro di declamazione, le vette del mondo ideale. Tre celebri declamatori e tre celebri declamatrici declamano tradotte in lingua cosmica le poesie più sublimi di Byron, di Shelley e di Victor Hugo e porteranno gli spettatori a godere le note più alte del mondo ideale. Teatro della voluttà, la sinfonia del piacere. Gli spettatori godranno le armonie della musica, del profumo, del sapore artificiale e delle vibrazioni edoniche, mentre gli occhi si inebrieranno di continuo con lo svariato caleidoscopio di immagini che passeranno con corrente interrotta sulla scena. Paolo e Maria avevano già assistito a parecchie rappresentazioni nei teatri di Andropoli, ma la sera del 26 aprile vollero godere la serata di gala, a cui interverrebbe il Pancrate con lo Stato Maggiore dei suoi ministri e di tutte le persone più ragguardevoli della città. Era anche una bella maniera per conoscere il presidente dell'Accademia delle Scienze, il presidente dell'Accademia di Belle Arti e molti grandi uomini celebri in tutto il mondo. Il cartellone del teatro annunzia il ciclo del piacere cosmico da Omero fino all'anno 3000. L'argomento promette molte liete emozioni. Il teatro è isolato in una grande piazza e vi si sale per una larga gradinata di marmo. L'architettura è greca e di stile severo. Nel vestibolo che fa capo alla scala si aprono vari caffè nei quali gli spettatori fra matto e l'altro possono rinfrescarsi. Una immensa folla si accalca sullo scalone nel vestibolo. Entrati nel teatro, i nostri due viaggiatori rimasero per un momento estatici. La sala è un anfiteatro a gradinate senza palchi e ogni posto è distinto dall'altro. Solo nell'alto vedi una grande piccionaia in forma di galleria e dove si addensa già da un paio d'ore la folla degli spettatori poveri. Paolo e Maria avevano preso due posti in prima fila onde essere più vicini al palcoscenico. Appena si furono seduti, Maria rimarcò che davanti ad essi era posto sopra una tavoletta una specie di berretto di una stoffa molto grossa di seta a cui facevano capo sei fili. Era per lei una cosa nuova e curiosa, non avendola veduta in nessun altro teatro, per cui domandò subito al compagno: «E che affare questo?» Paolo si mise a ridere e poi: «Te lo spiego subito, guarda gli altri spettatori. Appena hanno preso il loro posto, si levano il cappello e si mettono in testa il berretto che si chiama l'estesiometro. Poi fissano il filo più grosso alla tavoletta che sta loro dinanzi, tenendo gli altri fili nella mano. È un apparecchio inventato da poco tempo da un celebre fisico inglese e che fino ad ora non fu applicato che in questo e in qualche altro grande teatro d'Europa. Il filo che fa capo alla tavoletta comunica con un grande condensatore di forza elettronervea che è una sola per tutti quanti gli spettatori, mentre gli altri cinque fili minori si applicano in vari punti del nostro corpo a seconda del senso di cui vogliamo accrescere o diminuire la sensibilità». Mentre Paolo parlava, aveva in mano i fili e andava spiegando alla compagna il meccanismo dell'apparecchio. «Tu vedi, questo è il filo della sensibilità generale e si può applicare in qualunque punto del nostro corpo. Di solito si tiene in mano e ciò basta perché noi possiamo acuire o moderare tutte quante le nostre sensazioni. Il più e il meno di sensibilità si ottiene premendo col piede l'uno o l'altro di questi pedali che tu vedi qui sotto dinanzi al nostro sedile. Quando uno spettatore vuole crescere l'intensità del piacere che prova in qualunque delle scene del teatro, preme sul più e la sua sensibilità cresce secondo la pressione. Se invece sente troppo, preme sul meno e modera così l'intensità del piacere, il quale si trova a diversi gradi di tensione secondo le nostre condizioni del momento e secondo il modo di sentire di ciascheduno. Vedrai che alcuni degli spettatori non fanno uso di questo nuovo strumento, che è un vero regolatore della sensibilità, sia perché lo trovano ancora troppo complicato, sia anche perché si accontentano dello stato normale del loro sentire. Quando tu applichi il filo più sottile sulla fronte o sull'orecchio o sul naso, agisce più direttamente sul senso della vista, dell'udito, dell'olfatto, rendendo più delicate e più squisite le sensazioni che vi corrispondono. Negli antichi teatri il piacere non era dato che dai due sensi della vista e dell'udito, ma oggi nei nostri spettacoli è entrata anche la nota del profumo e perciò anche i piaceri dell'olfatto possono essere moderati o resi più intensi con l'uso di questo estesiometro. Maria crollava il capo tra la meraviglia e l'ironia e poi: «Tutto questo mi sembra troppo complicato, troppo artificioso. Mettiti tu il berretto magico, quanto a me voglio per questa sera accontentarmi dei miei sensi naturali così come me li ha fatti Domeneddio». Intanto la sala è illuminata da una luce di cui non si vedeva la sorgente e che rischiarava uomini e cose come il sole, si andava riempiendo e una musica suavissima, di cui non si vedevano gli esecutori, spandeva all'intorno le sue divine armonie. A un tratto la musica cessò e si apersero le cortine che separavano gli spettatori dal palcoscenico e apparve all'occhio di tutti la prima scena. È una famiglia preistorica che fa il suo pasto in una grotta troglodittica. Uomini e donne nudi, irsuti, asce di pietre immanicate appese alle pareti della grotta, nel mezzo un focolare acceso su cui cuoce la metà di una rena enorme che è già pronta per essere mangiata. Il padre di famiglia distribuisce alle tre mogli e ai fanciulli che gli fanno corona coltelli di pietra di varia grandezza secondo l'età di chi deve maneggiarli, e tutti guardano con occhi avidi l'arrosto saporito e fumante, aspettando che il padre spenga il fuoco e dia l'ordine dell'assalto. La scena preistorica non poteva essere più fedelmente rappresentata e l'evidenza storica era ancora più eloquente perché alla sensazione della vista si associavano quelle dell'udito e dell'olfatto. Mentre quei trogloditi facevano a pezzi l'arrosto preistorico, spezzando le ossa lunghe con martelli di pietra e succhiandone avidamente il midollo, si udiva una musica invisibile, rozza, barbarica, tumultuosa, e in tutta la vasta sala del teatro si sentiva un odore selvaggio di carni arrostite. Fuori della grotta pareva di sentire da lungi mugiti di fiere, mentre il cielo scuro lampeggiava come per una procella vicina. Tutto era unisono e concorde per trasportare gli spettatori nel mondo di centinaia di secoli or sono, e a tutti sembrava di rivivere in quella gioia animalesca di una famiglia neolitica che saziava la sua fame omerica con un pasto selvaggio ma saporito. «Vedi, Maria», disse Paolo, «io mi servo subito del mio estesiometro perché questa scena mi piace assai, ma non così egualmente trovo troppo gradevole questo profumo di carne arrostita». Io metto il filo dell'estesiometro sul naso, premo il piede sul pedale moderatore ed io non sento quasi più l'odore del bruciaticcio, anzi l'odore è diventato quasi un profumo di bistecca che mi solletica piacevolmente il palato e mi risveglia l'appetito. Maria allora, incuriosita della cosa, volle mettersi anch'essa il magico berretto e se ne trovò soddisfattissima. Finita la prima scena, si richiusero le cortine e si riaprirono poco dopo per mostrarne una seconda. Era una scena di guerra omerica nei tempi dell'antica Grecia, e chi ha letto l'Iliade o l'Odissea può figurarsela facilmente. Mentre la prima scena rappresentava la gioia animalesca del mangiare, questa mostrava al vivo le terribili voluttà della lotta, e i cavalli che portavano i guerrieri alla battaglia nitrivano, e gli eroi dagli elmi piumati alzavano a cielo grida formidabili, e lance e giavellotti cozzavano orrendamente tra di loro, e l'urlo selvaggio della vittoria riempiva l'aria di orrore, mentre carri passavano sui caduti e i loro gemiti si udivano nel fragore e nel tumulto della pugna. Finita la battaglia, appariva lassù nell'alto cielo Venere bella, spargendo fiori sui vincitori. Anche in questa seconda scena la musica armonizzava con l'orrore della battaglia e coi dolori della morte, e un odore di sangue e di ferri cozzanti circolava per l'aria da cui le tinte dell'omerica scena. Non starò a dire tutte le scene che si successero l'una dietro l'altra in quella sera, rappresentando a grandi salti le gioie dell'umanità attraverso le evoluzioni progressive della civiltà. Si ebbe una scena di lotta di gladiatori e di fiere nel Colosseo di Roma, e anche là la musica era romanamente terribile e grande, e l'odore sparso per la sala del teatro era di pelli sudanti di belvercine. Si ebbe una scena di una corte d'amore in un castello di Provenza con dame bellissime e pennuti cavalieri. Si ebbe una festa carnevalesca del popolo nel tempo dei Medici. Si vide un ballo delle Tuilerie al tempo di Napoleone III di Francia. Ed altre scene tutte gaie e festose dei tempi successivi. Non mancarono durante lo spettacolo gli applausi e una sola volta una scena fu zittita, quella cioè in cui si rappresentava una cena pantagruelica in un convento di francescani. Il ricordo dei tempi frateschi era per sé stesso poco simpatico e la scena era con troppa fedeltà rappresentata al vivo nella brutale disarmonia estetica delle sue note. Mentre alcuni frati eruttavano rumorosamente dai ventri troppo obesi, un altro frate leggeva ad alta voce un libro di preghiere, sogghignando sotto i baffi e maciullando di nascosto un'ala di cappone che gli aveva passato un collega. Questa scena, benché fosse rappresentazione di gioie storiche, parve sguaiata e perciò fu zittita. Fra un atto e l'altro dello spettacolo, Maria e Paolo poterono passeggiare nei corridoi e nelle ampie sale di conversazione, di cui era fornito il teatro e che erano altrettanti giardini ornati di vaghe piante in fiore. Anche negli intervalli la musica non cessava mai di spandere all'intorno le sue armonie deliziose. Nello stesso tempo correnti invisibili di profumi svariati e delicatissimi accompagnavano la musica dell'orecchio con un'altra musica di odori che si alternavano e si confondevano, facendo dei veri concerti armonici e melodici che deliziavano gli spettatori di una voluttà olfattoria affatto sconosciuta agli uomini dell'epoca antico. Fine del capitolo 10, letto da Claudia Canti.